piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Doveva essere giorno più bello, invece è stata una tragedia. Il banchetto del loro matrimonio si è infatti rivelato fatale per lo zio dello sposo. Pierino Magnelli, 77 anni, ex ferroviere, è deceduto dopo 48 ore, ucciso da un'infezione interna provocata da uno dei cibi serviti ai tavoli della locanda delle antiche sere di Maretto nell'Astigiano. I medici ipotizzano che sia stato del pesce avariato a scatenare l'intossicazione, che ha costretto al ricovero anche un centinaio di ospiti, oltre agli sposi, Valentina Fina, 33 anni, e Fabrizio Magnelli, 40 anni, torinesi. I due avevano scelto il locale con accuratezza e provato tre volte il menù che prevedeva aperitivo in piedi e poi pranzo, battuta di fassone al coltello, ravioli con ripieno di capesante e portate a base di ricette tipiche piemontesi. Il sospetto si è spostato sulle poche portate a base di pesce proposte dal ristorante, forse del salmone servito nell'aperitivo. Su 113 invitati, soltanto una dozzina non si è sentita male. Il primo ad accusare i sintomi dell'intossicazione è stato un parente dello sposo, domenica sera, tornando a casa. Lo zio, nel tardo pomeriggio, dopo aver accusato i primi sintomi... Questa è stata un'ecatombe, il pranzo matrimoniale. Però ci sono episodi ben più limitati, ma altrettanto preoccupanti. A Roma, vicino alla Corte di Cassazione, sei magistrati, lo leggo su Repubblica di oggi, nella cronaca di Roma, vanno a fare uno spuntino in un noto ristorante a Piazza Cavour, che è la piazza da poco recentemente restaurata di fronte alla Corte di Cassazione, si lasciano tentare da un tonnetto freschissimo scottato. Il primo magistrato mette un boccone in bocca e schiatta subito per terra, tac, svenuto. Grande un malore, poi gli altri cominciano sintomi di diarrea, vomito, cose terribili, li portano tutti all'ospedale, gli stanno facendo le flebo, è un attacco di sindrome sgombroide. Beh, quanti di voi sono stati colti dalla sindrome sgombroide? Perché stiamo vedendo, mentre da una parte c'è una esaltazione del gran gourmet e delle cucine, degli chef, anche persone che oltre i quattro salti in padella non sono mai andati, ti invitano a casa e ti fanno vedere, ti impiatto la carne Simmental, te la impiatto, ci mettono due schizzi di maionese, due foglie di insalata, uno sputacchio sopra, guarda com'è impiattata bene la carne Simmental. Insomma, si sono annetati tutti dei grandi chef, questo è il paese dove si mangia bene ovunque, vedi dei menù davanti ai ristoranti che ci devi mettere mezz'ora, se ti siedi anche in pizzeria ti portano il calzone ripieno con il würstel, arriva il quarto cameriere e sta mezz'ora a spiegarti, allora si salta in padella sul letto di mozzarella, poi questo è un lievito naturale di madre vedova che viene fatto lievitare per 60, mezz'ora a descriverti il calzone. Beh, dietro questa maniera in realtà c'è una vera strage di avventori. Ci stiamo rendendo conto che sono sempre più le persone intossicate al ristorante. Una volta ci stavano un po' più attenti, ma tra i tanti casi ve ne faremo sentire molti che vengono denunciati, i giornali sono pieni di queste denunce. Quante sono le persone che tornano a casa, schiattano dal mal di pancia, poi non hanno nemmeno il coraggio di denunciare nessuno, penso beh sarà una volta, via dicendo, andata così. Non pensate che c'è un abbassamento delle condizioni di sicurezza, di attenzione, di cura, dovuto proprio al fatto che le persone si lasciano incantare dal tonnetto freschissimo scottato, che poi penso che siano quella roba lì che si compra al supermercato, molte volte l'ho aperto, veramente puzzava, perché tonno che viene dal salmone del Baltico affumicato è sempre un affare lì di plastica cellufanata con dentro delle strisce di cadavere che va dal marroncino al rosa pallido. Quello rosa pallido è il salmone, si compra sotto le vacanze di Natale, poi rimane lì ancora a Ferragosto, c'è il salmone di Natale, la gente lo compra, lo rigira, fa finta che è qualcosa di raffinato. Beh, quanti di voi sono rimasti colpiti dalla sindrome sgombroide o qualcosa del genere? Quanti di voi hanno avuto l'attacco terribile dopo aver mangiato al ristorante? Cosa sta accadendo nei ristoranti italiani? 800240024. I clienti erano tranquillamente seduti al tavolo a mangiare sushi, sashimi e fritture varie in questo ristorante giapponese a due passi dalla stazione di Catania. Ignoravano, tra un'incursione e l'altra, i piatti di portata che appena pochi metri più in là, nelle cucine, scorazzassero topi e scarafaggi, uno scenario impreziosito dalla presenza di polveri velenose sparse qua e là dai titolari nel tentativo fai da te di disinfestare. Gli uomini delle volanti della questura di Catania ieri sera hanno trovato questo ed altro, quando sono entrati insieme ai tecnici dell'ASPA all'interno del locale, oltretutto in cucina lavorava un immigrato clandestino che ha tentato la fuga ma è stato comunque fermato e identificato. Nessun dubbio qua sul rispetto. C'è stato un fraintendimento. Questo è un esempio di cucina fusion. Il topo assieme al sushi naturalmente fa parte di una scoperta, una ricercatezza culinaria, non si capisce, ma qualcosa sta accadendo. Devo dire, una volta si capiva esattamente, il rango del ristorante veniva classificato un po' dall'apparenza esteriore, un po' da quanto pagavi. Oggi questa sorta di grande mistificazione, oggi è tutta una sorta di immaginario culinario che viene appiccicato su qualunque cosa. È difficile un po' capire, perché esiste la formula bistrò, significa tavolini di merda e sedie prese da rigattiere, però che danno quell'idea di locale parigino, un po' attraversato dal tempo, dalla corrosione tipica delle menti degli intellettuali che su quei tavolini hanno composto poesie, composto saggi, composto pensiero. Quindi vai al bistrò e trovi tutte cose raffinatissime, delle bellissime centrifughe, degli estratti, delle cosine indecifrabili, però anche lì può capitare che ti prende la sindrome sgombroide, come se vai nella vecchia antica trattoria del vecchio Buiaccaro che sembrava poter mangiare solo cose semplici, comincia a esserci già lateralmente menù vegano, menù privo di carboidrati. C'è qualcosa sotto tutta questa mistificazione, questa sorta di cosmesi estetica, che in realtà si è abbassato il livello di attenzione rispetto alla qualità del cibo. Nicola, buongiorno. Salve, buongiorno. Io la stavo ascoltando, anzitutto sono un cuoco, un ristorante in Abruzzo. E si è sentito forse sotto accusa? Che c'entra? Non mi cade. No, non accusa. Adesso non si può dire che ci sono gente che si avvelena al ristorante, che i cuochi si arrabbiano. E allora, qual è il problema? Io ho un carissimo amico che è un chirurgo, insomma, importante, mi dice sempre così: Nicola, tu fai un lavoro delicatissimo. Io gli dico: dottore, ma certo, sta scherzando? Mi fa: no, tu entri. Come un cardiochirurgo, lei mette le mani nella parte più intima dell'umanità. Entriamo dentro le persone, poi, in un certo senso, quindi è un gesto che sia magari mentalmente ma proprio fisicamente entriamo dentro le persone. Allora mi spieghi, visto che lei è del mestiere, lasci perdere la difesa d'ufficio che non è fuori, certo, posto. Okay. Cosa sta accadendo? Come mai sono sempre più i casi di gente avvelenata? Cosa sta succedendo? C'è un abbassamento di attenzione, secondo me, che viene mistificato in questa sorta ormai di apparenza di matrice televisiva, che tutti i ristoranti improvvisamente devono dare l'idea che loro lì confezionano cose eccelse. Non sarebbe il caso di tornare a qualcosa di più semplice ma più attendibile? Volendo sì, però c'è anche chi fa un ottimo lavoro decantando quello che fa e lo fa realmente in quel modo. C'è chi magari approfitta della moda, del momento, e quindi insomma si vanta di fare cose che invece... Ma qual è il punto debole, secondo lei, Nicola? Lei che è proprio una persona... Che qual è il punto debole? La serietà da parte di chi fa questo lavoro, perché io ci metto la faccia, il nome, i debiti, insomma tutto quello che ci metto per dare il massimo. Poi c'è chi magari fa questo lavoro, lo fa sotto forma di business, con un progetto di breve, forse media, di medio lungo corso, e magari lavora in questo. Allora entriamo nel campo pratico, le faccio qualche domanda pratica. Prego. Non può essere che è cambiata notevolmente il nostro approccio alla cucina, soprattutto quando si va, esatto, al ristorante. Una volta erano pochi piatti semplici, o anche molti piatti. La cosa che mi sembra in cui si cada di più, la famosa sindrome sgombroide, che è quella che poi fa peggio, nasce proprio dal pesce crudo. Noi improvvisamente siamo diventati dei mangiatori di pesce crudo, che è una cosa che i nostri nonni si sarebbero rivoltati nella tomba, dice il pesce crudo. Non è che un po' noi abbiamo acquisito delle mode alimentari che in realtà non abbiamo ben sedimentato dal punto di vista della preparazione? Beh, ma certo, è tra virgolette colpa o merito della globalizzazione, sicuramente, quindi ovviamente abbiamo avuto delle influenze, però del pesce crudo io posso somministrarlo stando attento alle normative, stando attento a tutto il discorso igienico-sanitario, ed evito sicuramente la sindrome sgombroide oppure altro. Quindi, ma è quello il punto debole, secondo lei? Diciamo, il terreno più pericoloso è quando uno vuole improvvisare delle preparazioni che richiedono molta attenzione. Io ho 34 anni, non ne ho 120, ho un ristorante da 15 anni, ogni giorno dico ai miei ragazzi: stiamo attenti, perché anche oggi rischiamo di fare una sciocchezza, anzi no, di fare qualcosa di grande, e quindi investo sull'abbattitore di temperatura, lo utilizzo in maniera, perché poi il problema è anche l'informazione. Mi spieghi un po' che, tecnicamente, perché io mi sembra di aver capito, adesso le potrei far sentire 10 servizi dei telegiornali, proprio... no aspetti, di gente avvelenata, però vedo che alla fine... E più o meno si cade sempre nello stesso piatto, nel piatto apparentemente molto fashion, modaiolo certo. Così, dove però manca la base, l'attenzione. Alla fine lì c'è un pezzo di pesce esatto. Putrefatto, è quello pesce. Che fa male. Ma magari anche freschissimo, non deve essere per forza putrefatto, ma l'ho acquistato dal mio amico che fa il pescatore, che è uscito in barca, ha trovato il tonno, l'ha tenuto 3 ore sotto al sole e me lo viene a dare. Già lì vado a rischiare perché non ho tracciabilità, non ho responsabilità. Io tante volte non compro pesce da un ristorante sul mare, da persone che mi conoscono, dicendo la responsabilità poi deve essere al 50%. Quindi è molto delicato, diciamo, l'acquisto del pesce per fare pesce. Capiterina, e lì parte tutto. Lì il rapporto di fiducia che hai con il tuo pescivendolo, con il tuo grossista, da là inizia piano piano a toglierti le responsabilità. E posso dire una cosa, Nicola? Noi abbiamo fatto tempo fa una trasmissione sulla tenuta igienica delle cucine dei ristoranti. Vengono fuori le persone che vedono, lei non so se conosce la città di Roma, attraversata da un fiume che si chiama Tevere, che è bello a vedere, pieno di storia, anche pieno di pantegane, i topi, gli scarichi. Cioè entrarci dentro esci come uno scheletro, hanno fatto anche un film che ci si diventa supereroi a entrare dentro il Tevere, capito? Per dire. E si vedono tutte le mattine questi signori cinesi, adesso senza discriminare, vanno con la canna da pesca, riempiono delle cofane di pescioni del Tevere, che in realtà sembra le bombe atomiche della Nord Corea, e se le portano via. A qualcuno viene il sospetto questo poi diventi sushi dei ristoranti finti giapponesi. C'è questo rischio? C'è questo rischio, però se posso permettermi, il consumatore, l'utente ha dei canali, ha degli strumenti sui quali io non voglio fare la pubblicità alla guida X o alla guida Y, però il passaparola, la serietà, la pulizia, anche semplicemente domandare di fare un giro in cucina, perché alla fine è legittimo, perché è da lì che parte l'alimento. Uno lo può chiedere, diceva l'avere in cucina, dove tenete il pesce? Deve esserci massima trasparenza, proprio per creare un rapporto di fiducia. Io credo che quella oggi sia un'arma molto vincente. Vabbè, ci ha dato un buon inizio. Sentiamo qualche altro ascoltore. Walter, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Il suo punto di vista sulla sindrome sgombroide. Che sarebbe il punto di vista, io le posso dare una chiave di lettura diversa anche. Praticamente c'è la forte possibilità che comunque ci siano anche dei piccoli mercati paralleli laddove, diciamo, il ristoratore cade in tentazione di acquistare magari un prodotto, lei faceva riferimento al tonno, un prodotto, diciamo, fuori canoni tradizionali. A quel punto naturalmente già lì la filiera non è più. Quindi c'è un sottomercato, per esempio chi organizza il catering per i matrimoni, vengono 300-400 assatanati che già arrivano soprattutto nei matrimoni pomeridiani, già sfatti, quindi quello che gli dai, cominciano a mangiare alle 3 di pomeriggio e finiscono tipo alle 1 di notte con il brindisi e bacio viva la sposa. Quindi qualunque gli dai a palate, qualunque cosa se la mangiano. In questo caso secondo lei c'è un sottomercato di sottoprodotti proprio per i palati non raffinati? Sì. No, diciamo di prodotti qualitativamente inferiori, cioè per dire, lei non lo sa, dicono un tonno, lei dice quello è un tonno, poi ci sono vari tipi di tonno. Ma lei è del mestiere? Io sono del mestiere, per fare il tonno crudo ci vuole un procedimento tale che fa lievitare il prezzo del tonno naturalmente, che comunque sia vengono messi in dei tunnel di congelamento a meno 60 gradi, un procedimento di scongelamento che deve essere fatto in una determinata maniera, e qui subentra anche, diciamo, la professionalità di chi va a decongelare il prodotto, quindi si sommano una serie di fattori e naturalmente può scoppiare poi la bolla, a quel punto la gente si sente male. Quindi la tartare di tonno è un piatto abbastanza difficile da avere un grande sicurezza. La tartare di tonno se la fa con il tonno apposta, siamo a sashimi per intendersi, o perlomeno un tonno che viene congelato a meno 60, di modo che tutti gli agenti patogeni vengono distrutti, ma se lei prende un altro tipo di tonno che non ha subito questo procedimento è a suo rischio e pericolo. E viene la sindrome sgombroide, mi sembra chiaro. C'è Silvio. La differenza di prezzo notevole. Allora abbiamo già visto due punti di vista, una parte chi non è il mestiere si improvvisa con piatti raffinati, esotici e di moda, d'altra parte ci sta il sottomercato dove si vendono i pesciacci schifi che uno costano meno e poi fanno star male. Silvio. Buongiorno, Io volevo intervenire proprio in merito al trend che... Ma lei anche è un esperto oppure un... Perché io sono anche un esperto. Stamattina chiamano tutti gli esperti, io ho delle testimonianze, qualcuno che ha avuto l'attacco di diarrea dopo che ha mangiato al ristorante. Comunque andiamo avanti. Sì. Comunque io volevo appunto introdurre l'argomento che non sappiamo più cosa mangiamo e beviamo. Partiamo da questo presupposto. Quando mai l'abbiamo saputo? Quando tiravamo il collo alla gallina che davamo il becchime sotto casa perché... Oggi invece chi vive a Roma o nelle grandi città ci troviamo invasi da questi che io ho coniato un termine, i ristoranti cinesi, perché non sappiamo se sono cinesi o giapponesi, si presentano come cinesi e poi alla fine offrono il cibo giapponese. Sì, oggi la maggior parte dei cosiddetti giapponesi sono gestiti da cinesi, tanto la gente non vede la differenza. Prima più di moda il Giappone, oggi andiamo dal cinese, poi il cinese è diventato sintomo di sfiga, adesso andiamo dal giapponese. Stanno già emergendo i coreani, andiamo dal coreano, è il prossimo grido di battaglia, già lo prevedo. Però in una città grande come Roma i ristoranti veri giapponesi sono 3-4. Sì, lo so, io ho un figlio maniaco e gran parte delle mie sostanze vengono dilapidate quando lui va al ristorante giapponese. Costa molto un buon giapponese, chiaro, costa appunto, molto. Appunto, ci facciamo la bocca poi con i no limits a 10-12 euro e lì usciamo con la pancia piena, però non sappiamo effettivamente cosa ci hanno servito. Io penso che un buon giapponese lei spende 80 euro se vuol mangiare sì, bene, esatto, se no esatto, non mangia bene, è chiaro. Esatto. Se i procedimenti sono quelli, è un lusso, non è... che costa meno perché non è cotto come pensa la gente, cioè tanto è crudo costa meno, non è così. Il controllo della filiera non lo sappiamo, non sappiamo se nelle cucine sono forniti di abbattitori come la legge prevede e prescrive, e quindi ci dobbiamo rimettere a quello che se sono aperti vuol dire che le autorità hanno loro permesso l'apertura, e qui ecco ritorniamo in un altro argomento. Se effettivamente ci sono... Allora lei dice ci sono pochi controlli. Fermiamoci un attimo che già siamo oltre il tempo limite. Richiedo ancora una volta agli ascoltatori di confortarmi su esperienze personali. Io vedo che sono felice che a quest'ora siano tanti esperti di cucina, tanti addetti alla ristorazione, all'abbattimento e via dicendo. Però vorrei capire qualcuno dei tanti di cui ho notizia, di cui ho informazione, che hanno subito il terrificante sindrome sgombroide, mi chiamino e mi dicano dove è accaduto, come è accaduto e cosa hanno mangiato soprattutto. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è trasformato per una coppia di Ragusa in un incubo. Circa 20 invitati al loro banchetto nuziale infatti si sono sentiti male avvertendo forti dolori addominali nel corso della cena che si è svolta ieri sera in una nota sala banchetti di Ragusa scelta dalla coppia per festeggiare con parenti e amici il loro matrimonio. Purtroppo però la festa è stata rovinata sul più bello, visto che appena iniziato il banchetto alcuni degli invitati, come detto, si sono sentiti male. Subito trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile gli è stata riscontrata una sospetta tossinfezione alimentare. A questo punto i due sposini non hanno potuto fare altro. Ci troviamo a un doppio binario. Da una parte siamo colpiti dall'incessante flusso delle notizie di persone avvelenate ai ristoranti, d'altra parte ci sono gli esperti che ci chiamano, persone del mestiere, dicono no, non succede mai, è impossibile, noi abbiamo l'abbattitore automatico, abbiamo il pesciaiolo di fiducia, abbiamo tutto a disposizione perché ciò non accada. Sentiamo se qualcuno ci porta qualche vivida testimonianza delle proprie viscere martoriate dalla sindrome sgombroide. Mariella. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire per dare proprio la mia testimonianza perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Dolorosa testimonianza, spero. Come? Dolorosa testimonianza. Sì, dolorosa perché praticamente questa situazione mi ha lasciato anche delle intolleranze che ormai me li devo... Dove è accaduto il fattaccio? È accaduto a Siracusa. Era il giorno di San Valentino, mi ricordo, con delle amiche, siamo andate al ristorante. Solo donne il giorno di San Valentino? San Valentino perché... Non è l'8 marzo che si vanno tutte le donne assieme? Sì, così abbiamo organizzato un pochino, andiamo fuori a mangiare. Ma non c'erano fidanzati, non c'era niente di simile? Vabbè, eravamo tutte persone, chi single, chi diciamo vedova come nel mio caso, quindi... E perché San Valentino festeggiavate? Ma così, ma era un giorno come, diciamo, era un modo per ritrovarci, ecco, non per la festa di San Valentino. La festa della nostalgia, chiamiamola così. Per me è stato un giorno, purtroppo, poi che è andato a finire come è andato a finire. San Valentino si è vendicato, però, non si può andare da soli. Cosa è successo? Sì, non si può dimenticare. Cosa mangiaste voi, povere sventurate fanciulle, il giorno di San Valentino? Cosa avete mangiato? No, abbiamo mangiato Sinizia, essendo Siracusa, una città marinara, in questi ristoranti si inizia un po' con questi antipasti di pesce spada crudo, queste, le cozze gratinate, insomma era tutto... Non vi siete, diciamo, risparmiate nulla? Un antipastino, no, ma diciamo erano una quantità giuste, non era... No, cozze gratinate, pesce spada crudo, poi? Sì, pesce spada crudo, poi mi pare che c'era, ma adesso è passato un po' di tempo, delle... come si chiamano, insomma crostaceo comunque, che io proprio quello che avevo mangiato era questa fettina di pesce spada, anche perché su 7 5 ci siamo sentite male. Ecco, quando sono cominciati i primi dolori? Sentite male perché non l'avevano mangiato. Quando sono cominciati i dolori? Già a tavola avete cominciato il dolore? No, io alle 24 ore. Vabbè, che il pesce traditore colpisce dopo, lo dicono infatti. Pesce sì, all'indomani io mi sono sentita male, ero andata in una riunione, sono tornata a casa. Si è alzata in maniera veloce e è andata via dalla riunione. Come? Ha lasciato la riunione improvvisamente per il dolore. No, subito dopo è finita la riunione sono ritornata a casa, appena ho messo piede a casa, senso di nausea. Spossatezza, poi ho cominciato a rimettere irrigidimento in tutti gli arti. Ma quella è una cosa seria, proprio un vero avvelenamento. Sì, ho chiamato poi il 118, sono andata al pronto soccorso, globuli bianchi alle stelle, svenivo in continuazione, si pensava un ictus, insomma. Vero avvelenamento. Tutta la notte facendo flebo, mi hanno fatto un attacco. Perché non. Cioè. Vabbè, adesso non entrare in particolari, sennò in questo momento deve andare nella diretta Facebook se vuole parlare di medicina. Beh, Bianca è stata male. Ha fatto un'azione legale verso il ristoratore? Allora, dottore Nicoletti, purtroppo non l'ho fatta perché io non sapevo che le altre mie amiche avevano. Si erano sentite male, però diciamo non avevano avuto lo stesso malore mio. Vabbè, poi questo è soggettivo. E quindi, quante ne ha colpite? Mi sono pentita di non averlo fatto. Diciamo il pesce spada, quante ne ha colpite di ragazze, oltre lei? Altri 5, però non in maniera grave come me. Però sei feriti sul campo per un pesce spada al giorno di San Valentino? Sì. Non è poco. L'unica cosa che faccio è che diciamo faccio a questo ristorante pubblicità al contrario, dico non andate in quel ristorante, Vabbè, salva la vita anche delle perché, persone. Insomma, perché io non sapevo, non avevo collegato il malessere a quel a quel pranzo, diciamo. Perché il pesce si dicevano i vecchi che il pesce colpisce a ritardo. Grazie, Sandro, buongiorno. Buongiorno. Alto del mestiere, vedo. Lei fornisce albergo. Io sono un grossista, un fornitore. Mi spieghi com'è la filiera del pesce? Come mai si arriva che poi la gente si ammala? La filiera del freddo è quella che viene interrotta, è quella che fa più danni in assoluto. Rompono la catena del freddo, questo è chiaro. Rompono la catena del freddo perché non è tanto la qualità dei prodotti, ma è la conservazione. Cioè, il problema principale in questo settore è uno solo, che nessuno lo vuol dire. Molti comprano direttamente dalla grande distribuzione, che può essere supermercati, superetto oppure discount, quello non è un problema. Possono anche comprare dei prodotti di media qualità. Il problema è che poi vanno con delle auto private e quindi tengono la merce per un'ora, due ore, tre ore in auto. Lei tenga conto che anche se il clima è attaccato non va mai sotto i 20 gradi e di conseguenza quando lei arriva nel ristorante e la rimette nella sua dispensa o nella sua catena del freddo è stata interrotta 4 o 4 ore. Quindi questo è il problema. Può essere anche un buon prodotto, ma se lo vanno a prendere in automobile, se lo portano al ristorante... Bravissimo. Dovrebbe avere un abbattitore mobile, dovrebbe averci questo. Ma guardi, tecnicamente per legge non dovrebbe... dovrebbero farlo, assolutamente. Però sai, se io vado al supermercato e mi vado a comprare un chilo di branzino o del tonnetto e non lo fatturo e butto via lo scontrino, quando arriva al ristorante alla sera lo posso anche servire, qual è il problema? Cioè non lo troveranno mai. Perché costa meno, alla fine conviene andare al supermercato. Guardi, a volte è una questione di costo, una volta è una questione che magari la fornitura non è stata fatta, diciamo, non sono riusciti a fare un ordine preciso, quindi sono rimasti senza prodotto. No, adesso mi ha spiegato, uno va al supermercato, se lo compra e lo rimette dentro il suo abbattitore, però è passato troppo tempo. Chiaro. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei cos'è, un testimone o un addetto ai lavori? Così vi classifico. No, testimone. Testimone, purtroppo. Oh, benissimo. Avanti, vada avanti allora, con i suoi dolori. È successo dolori. Più o meno un annetto fa, classico posto di Milano, io sono di Milano, dove si va a mangiare a mezzogiorno, tavola fredda, posto un po' anche figlietto se vogliamo. Eravamo una decina, io l'unico che ha mangiato il tonno, quello col sesamo, certo. Sta stato servito bene, bellissimo. Con i semini di sesamo sopra, certo, fa molto bene. Sì, esattamente, molto bello. E dopo neanche mezz'ora che sono andato in ufficio, sono stato malissimo, sono diventato rosso come un peperone, sono andato in bagno 1400 volte. E la cosa assurda di questa esperienza non è tanto questo, perché poi io me l'ho accorto subito, perché digitando in Google quello che stavo avendo in quel momento, era un ufficio, mi era venuto fuori sindrome sgombroide. Sindrome sgombroide? sì, come primo. No, ma la cosa divertente, lo sai, io da 0 a 50 anni, per me il tonno era quello dentro le scatole, pensavo che nasceva così. Poi improvvisamente ci si accorge che il tonno è un pesce, che colori diventa, non è soltanto marroncino beige, può essere di tanti colori, che si mangia crudo. Io pensavo che il tonno era quello delle scatole, ma il tonno, ecco, scatoletta di tonno. Adesso e l'esperienza più assurda di tutto questo è che, siccome è un posto che io andavo da anni, quello classico vicino al lavoro, il giorno dopo sono tornato, ma per capire che cosa poteva essere. E cosa hanno detto? Cioè, come sono giustificati? Allora, era chiuso. Al che il proprietario, che lo conoscevo da anni, mi ha detto stiamo ristrutturando. Chiaramente io non sono stupidissimo, mi è venuto un dubbio, no? La sera stessa, sul giornale di Milano, sugli eventi di Milano, quel posto lì era segnato come chiuso per sindrome sgondobroide dall'ASL per 2 settimane, eccetera, eccetera. Quindi è successo anche ad altre persone? Beffa, perché bastava che mi dicesse, visto che ho da anni, guarda, è successo questo, è capitato, io sarei tornato il giorno dopo. In questa maniera hanno perso un cliente, non penso che gliene frega molto in quel posto lì, però io non l'ho messo più piede. Comunque, abbiamo dato un nome ai vostri mal di pancia, si chiama sindrome sgombroide, che non necessariamente è lo sgombro, ma può essere qualsiasi pesce che esce dal rigore della catena del freddo. Abbiamo già acquisito alcuni punti in più, fra un po' completeremo questa importante riflessione su quelli che sono i dolori di chi si siede al ristorante. Tra poco. Una nave da crociera con centinaia di persone a bordo ha fatto rientro al porto di partenza nel New Jersey dopo che almeno 600 tra passeggeri e membri dell'equipaggio hanno registrato sintomi di vomito e diarrea. Secondo la compagnia, l'epidemia sarebbe dovuta alla diffusione di un virus. Ho visto molti che affollavano l'ambulatorio di bordo e per farsi visitare sono state necessarie delle... Fantastica la sindrome complottista, Nicoletti. Ti paga qualcuno per fare una campagna contro i ristoranti, magari McDonald's e multinazionali mi stanno pagando. Altro. Nicolè, parli l'abbattitore come fosse un'arma da fuoco, di pesce putrefatto, ma ci vuoi rovinare il pranzo? No, non voglio rovinare il pranzo. Stiamo facendo radio di servizio. Dice, perché i NAS vanno alle feste di paese e non entrano nei ristoranti in cui si può mangiare tutto quello che si vuole, o sono quelli dove è più facile? Vabbè, Antonello, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare un episodio che mi era accaduto tantissimi anni fa, addirittura nell'84. Eravamo in vacanza e l'ultimo giorno avevamo conosciuto delle ragazze durante quella settimana, io e un mio amico Fabrizio, per fare i brillanti, eravamo invitati nel migliore ristorante di pesce di Lignano Sabbio d'Oro, che mi ricordo ancora come si chiama il nome, Bidin. Siamo andati, abbiamo fatto i grattoni, abbiamo mangiato, comunque poi ci sono salutati, loro erano di Treviso, noi abitiamo in provincia vicino tra Milano e Pavia, non ci siamo più sentiti, noi siamo stati male 4 giorni in camera, non siamo potuti andare in spiaggia, ci siamo rovinati in mezza vacanza e loro probabilmente sono state male anche loro. Poi siamo andati all'ASL, lì a Lignano, abbiamo fatto la segnalazione alle autorità sanitarie, dicendo che il nome è così, e pensi che avevamo speso all'epoca, parlo di 33 anni fa, in 450.000 lire. Vabbè. Quindi diciamo la sindrome sgombroide ha radici lontane e profonde, ancora 30 anni fa nemmeno la gente sapeva cosa fosse il sushi, il pesce crudo si dava al gatto, eppure già da allora c'erano i prodromi di quella che sarebbe stata la piaga dei nostri ristoranti. Pietro? Sì, pronto? Ecco Pietro, lei dice una cosa molto interessante, perché la generazione precedente che aveva sindromi di mal di pancia e avvelenamento al ristorante le aveva per un altro tipo di pietanza. Sì, io con qualche anno fa, verso settembre, con degli amici, avevamo voglia di fare una scampagnata e mangiare i funghi. Ecco. E andiamo in questo posto su dalle parti di Bogotà, in provincia di Parma, nella zona dove abito io, facciamo questa mangiata di funghi, ma una cosa abbastanza esagerata. Arrivo, io faccio rappresentante, agente di commercio, il giorno dopo parto per andare a lavorare e comincio a avere dei problemi di stomaco. Praticamente per 3-4 giorni cambiava il combustibile della sua automobile, non andava più a benzina, diciamo, a quel punto. Ecco, bravo, andavo a gas. E praticamente tra bar, non bar, una cosa e quell'altra, io seminavo. Però ecco, poi è successo che per un po' funghi basta, perché sai, insomma, dopo quell'esperienza lì mi capitò dopo 2-3 anni di andare in un altro posto, mi sono lasciato tentare dai funghi e non ho avuto problemi, ecco, capito? Vabbè, mica sempre succede. I funghi era la classica pietanza che avvelenava le famiglie, i pranzi. Se andava a prendere i funghi c'era sempre in mezzo il fungo contaminatore. Di funghi sente parlare un po' meno, anche perché i funghi non si mangiano più, si mangiano meno. Oggi il vero piatto è appunto il pesce crudo, che è all'apice, diciamo, di tutte le raffinatezze della convivialità. E quindi sul pesce crudo scatta la sindrome sgombroide. Antonio, è un medico. Nicoletti, buongiorno. È un medico. Sì, sono un medico. Benissimo, parliamo della sindrome sgombroide, visto che abbiamo un medico a disposizione. Per essere particolare, la sindrome sgombroide è data dal rilascio di stamina nelle carni del tonno in particolare, che non viene congelato appena pescato. Oh, ecco, perfetto, lo spiega bene. Questa quello stamina. Quello che invece talvolta con cui quello di cui si è parlato tanto sono le tossinfezioni per crescita batterica, perché il pesce non viene conservato, viene trasportato, come diceva l'altro ascoltatore, in automobile. Mi è capitato di vedere la stessa cosa in un supermercato qui a Roma, di gente che prendeva del pesce, lo caricava in macchina, tanto pesce, quindi verosimilmente per un consumo da ristorante, certo, non per un consumo diciamo familiare. E in quel caso lì poi c'è la crescita batterica e quindi l'aumento. Cos'è peggio, diciamo, dottore? Qual è la cosa che fa star peggio? Diciamo la stamina sgombroide da non congelamento o quest'altra roba coi batteri? Esatto. Giusto per precisare, sono due cose differenti. Talvolta purtroppo chi compra il pesce non sa se il pescatore, quindi è molto importante sapere dove ci si rifornisce, perché talvolta può capitare che non è un problema che è successo in barca al momento della pesca. Non l'hanno abbattuto subito, appena pescato. Praticamente quindi, più o meno sì, il concetto. Rilascia questa stamina al pesce appena pescato. Stamina, che è una sostanza che è quella che è responsabile delle allergie. Quelle che noi normalmente produciamo per gli allergici. Quindi non è che ci si scherza col pesce crudo, bisogna stare un po' attenti, ecco. Il dottore si è autodissolto, si è staminato. Sebastiano. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un tecnico della prevenzione. Quindi lei cosa fa? Lei controlla i ristoranti? Controllo anche i ristoranti. Oh, mi spieghi in particolare gli alimenti origini. Oh, mi spieghi delle cose terribili che vede durante il suo lavoro, perché sennò sembra tutta rose e fiori. Insomma, se ne vedono un po' di tutti i colori. Faccia degli esempi. Delle fattispecie, diciamo, di questo tipo di carni, cioè delle carni dei tonni in questo caso, insomma. Lei quando va a fare un controllo capisce subito se c'è qualcosa che non funziona? Cioè che abbiamo degli aspetti che sono a vista e altri che sono documentali o che vanno certamente visti. Diciamo quelli a vista, colpo d'occhio, come capisce subito? Beh, che un tonno che non è fresco, se non è stato alterato con motivi fraudolenti è evidente che non è fresco. E quali sono i motivi fraudolenti? Cosa fa? Lo verniciano? È proprio l'argomento per cui l'ho chiamata. Gli danno l'ombretto, cosa non fanno? Non ho sentito tutta la trasmissione, però forse non è chiaro a tutti che nella conservazione dei tonni che viene operata a bordo, come ha detto correttamente il medico di prima, il prodotto viene congelato, ma non viene congelato sempre alla stessa temperatura. Ci sono tonni che vengono congelati a -20 e tonni a -10, perché vengono messi in una salamoia particolare. Questi tonni che sono autorizzati a determinate barche che sono denominate una per una anche in determinati documenti dell'Unione Europea, perché sono anche barche che si trovano anche fuori dell'Unione Europea. Cosa ci si fa? Con quelli meno congelati cosa ci si fa? Si può dopo scongelarli e siccome hanno caratteristiche anche di mercato e di prodotto diverse dagli altri, possono essere, siccome avranno evidentemente un colore diverso, fraudolentemente addizionati rispetto al più usato il monossido di carbonio che viene aggiunto. Quindi ci sono, cioè, li mettono davanti, diciamo, al tubo di scappamento, accendono l'automobile, gli danno una sfumicata col tubo di scappamento e torna nuovo. Quello è il monossido. Cioè, ancora peggio, gli danno un'avvelenata col monossido e tornano come... Più o meno. Questi sono i dati che abbiamo dalle evidenze, perché noi possiamo lavorare solo su base documentale, in base chiaro. Alle evidenze. Ma lei a colpo d'occhio lo capisce un pesce monossidato, smoggato oppure no? No, lo vediamo in base ai referti. Beh, a colpo d'occhio c'è il suo motivo in realtà di pensarci, perché è un rosso particolarmente squillante, questo sì, questo sì. Quando è un bel pesce rosso è qualcosa che non funziona. Soprattutto nei tonni particolarmente rossi sì, c'è da dubitarne, c'è da dubitarne. E poi altre cose, vi faccio capire, visto che quando entra lei in un ristorante è il terrore, come entra la guardia di finanza in un esercizio commerciale. Perché noi andiamo dopo che già la gente si è sentita male in questo caso, per cui non è tanto terrore. Ma voi andate dove hanno già colpito. Allora, fermo un attimo, Fabrizio, chiudiamo con buongiorno. Cosa le è successo? Guarda, io sono padre di 4 figli, appassionati, mio malgrado, di sushi. Lo per so. Cui quando vado con mia moglie vado in locali, insomma, di un certo livello. Per non morire, insomma, per non mettere il mutuo, un giorno sono andato... E i figli quanti anni hanno? Quanti anni hanno? 15, dai 15 ai 6, il più piccolo. E anche quello piccolo vuole il pesce crudo? Come no, dire. Il piccolo ha mangiato una cotoletta, devo dire. Beh, gli altri sono appassionati. Adesso va molto di moda, anche fra ragazzi, quando escono il sabato, vanno a mangiare il sushi, non c'è più la pizza. E quindi cosa è successo? Bene, e quindi siamo andati in questo you can eat, anche abbastanza quotato, e abbiamo mangiato, come si fa in quell'occasione, a 4 ganasce, ecco. E devo dire, la sera siamo stati tutti e 5 male, quindi le lascio immaginare. Meno quello della cotoletta stava benissimo. Quello della cotoletta saltava sul letto e si faceva si è salvato, vedo. Della faccia nostra. È stato il più furbo di tutta la famiglia, tutti vanno a mangiare il pesce esotico, sono beccati la sindrome sgombroide, lui si è mangiato la cotoletta, saltava felice, mentre papà, mamma, fratelli e sorelle si alternavano nella corsa al gabinetto. Beh, divertente. Ci sentiamo domani.